Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Lo scorso 1 novembre è entrato in vigore il nuovo divieto di transito settoriale in Austria. Da questo mese i veicoli da trasporto merci con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo non potranno attraversare l'autostrada A12 della Valle dell'Inn se movimentano alcune tipologie di prodotti come ferro, piastrelle o rifiuti. Il provvedimento contiene una deroga per gli Euro 6 e, ma solo fino alla prossima primavera, per gli Euro 5 di ultima generazione. Il governo austriaco torna così ad attuare una misura che è stata già bocciata ben due volte dall'Europa e che tocca non solo le imprese di autotrasporto che attraversano il Tirolo, ma soprattutto le merci italiane, che, attraversando questa strada, devono arrivare sui mercati europei. Sull'iniziativa, intanto, pende un parere della Corte di Giustizia europea, chiamata a vigilare sulla libera circolazione delle merci. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla scheda iniziale, è partito qualche giorno fa, il 1 novembre, il divieto settoriale in Austria. In pratica il Tirolo non consente il passaggio di veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate per alcune tipologie di merci. Sono esentati da questo divieto per il momento i veicoli Euro 6 e sembra anche gli Euro 5 di ultimissima generazione. Resta il fatto che si tratta di un provvedimento molto pesante per le merci italiane. Sono anni che l'Austria cerca di portare a termine questo progetto, sempre bloccato dall'Europa. Questa volta non è riuscita l'Europa a bloccarlo prima, ma c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea che pende su questo provvedimento, ma cerchiamo di capire quali saranno le conseguenze per il mondo italiano, non solo dei trasporti, ma anche delle merci, e lo facciamo in compagnia di Thomas Baumgartner, che è il presidente di ANITA, una delle associazioni di categoria che con più attenzione ha seguito l'evoluzione di questo provvedimento. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio. Resta ancora da capire fino a quando saranno consentiti i transiti dei veicoli Euro 6, se sarà una deroga permanente o a tempo, ma resta il fatto che si tratta di un provvedimento che è molto pesante per il mondo italiano delle merci. Infatti già due volte la Comunità Europea ha bloccato questa iniziativa del Tirolo, che tende a limitare il transito, il traffico di determinate merci attraverso il loro territorio. Specificamente si parla di merci come legname, piccoli di ogni genere, metalli ferrosi, acciaio, oppure piastrelle, tutte merci che l'Italia esporta verso l'Europa. Bisogna considerare che l'Italia esporta il 70% delle proprie merci verso l'Europa del Nord, e quindi è necessario che queste merci possano attraversare le Alpi senza discriminazione alcuna. Cioè, la scelta della modalità di trasporto, che sia ferroviario piuttosto che stradale, deve essere lasciata al committente, al caricatore, altrimenti incidiamo in modo pesante su scelte che gli esportatori devono fare. Noi riteniamo che si possano utilizzare sistemi alternativi come l'intermodale ferrovia-strada, però sempre in caso che questa alternativa possa essere economica, fattibile e possa essere la libera scelta dei committenti caricatori verso questa modalità, ma non forzata, non obbligata, come, vuole, certo non obbligata sì. Come vuole fare il Tirolo. E per questo la Comunità Europea ha sempre rifiutato queste limitazioni, perché è un diritto fondamentale dell'Unione Europea, la libera scelta, certo, della modalità del trasporto. E la libera circolazione delle merci. Ovviamente le imprese di autotrasporto italiane non sono impreparate a questo. Dobbiamo dire che gran parte delle imprese italiane usa veicoli Euro 6 di ultimissima generazione, quindi riuscirà a sopravvivere, come dire, a questo divieto dell'Austria. No, bisogna dire che in effetti il Tirolo e l'Austria inizialmente avevano previsto il divieto settoriale anche questa volta, senza permettere per veicoli di ultima generazione il trasporto con queste merci. E grazie proprio al nostro intervento e proteste, ecco, che abbiamo fatto, e abbiamo soprattutto fatto presente che non è la merce che eventualmente inquina, ma sono i veicoli vecchi che eventualmente inquinano. Perciò un divieto doveva essere casomai imposto ai veicoli di più vecchia generazione, ma non un veicolo di ultima generazione con impatto ambientale molto ridotto, solo perché trasporta determinate merci non possa più circolare. Su questo pare che l'Austria adesso sia venuta incontro a questa nostra richiesta. In effetti è proprio dal 1 novembre un nuovo aggiornamento del decreto e pare che con questo vengono esclusi sia i veicoli Euro 6 che spara senza termine temporale e anche le Euro 5 di ultima generazione fino al 1 maggio del 2017. Bisognerà vedere come effettivamente viene tradotto questo decreto. Ecco, probabilmente con quest'ultimo decreto l'Austria cerca di evitare lo scoglio sicuramente pesantissimo della Corte di Giustizia Europea, alla quale pende appunto un ricorso contro questo provvedimento. Esattamente così, penso che lo faccia per non avere una terza volta, rischiare una terza volta di voler introdurre un divieto che poi dalla Corte di Giustizia Europea viene contestato. C'è da considerare che è un altro fatto che noi contestiamo fortemente. Siccome l'Austria questo divieto cerca di motivarlo per un inquinamento che sarebbe registrabile nella Valle dell'Inn, la Valle dell'Inn da Innsbruck verso il confine, verso la Germania, che però contemporaneamente non mette nessun divieto per quanto riguarda le merci che partono da Innsbruck, arrivano in Innsbruck e vanno verso la Germania o verso l'Austria dell'Est, verso Vienna per intenderci. Noi riteniamo anche che questi trasporti transitano nella Valle dell'Inn e inquinano come i trasporti di transito dall'Italia verso la Germania, per esempio. Sì. Perciò vediamo discriminante, ma non per i trasportatori italiani, ma soprattutto per gli esportatori italiani. Per le merci italiane, certo. Per le merci italiane che in questo caso, con questo divieto, si trovano svantaggiate verso un esportatore del Tirolo che fa concorrenza con la sua merce in esportazione verso le Germania, per esempio, che non ha questi limiti che abbiamo invece noi. Eventualmente strade alternative per raggiungere i mercati del centro Europa, a parte quella intermodale, quella dell'utilizzo della ferrovia di cui lei mi ha già parlato? Certo, alternative sarebbero sempre la Svizzera in linea diretta verso la Germania, solo che anche la Svizzera pone certi limiti, soprattutto il divieto di circolazione notturno, un'altissima tassa, quasi 300 euro per passaggio nel territorio svizzero, però la Svizzera, sappiamo, non fa parte della comunità europea, perciò può logicamente fare quello che vuole, praticamente. Può fare quello che vuole. Le alternative sono poi solo via Tarvisio o via il Monte Bianco o il Frejus, che però comportano poi deviazioni 300-400 chilometri, certo, con necessario aggravio dei costi per le merci esportate dall'Italia. E quindi le nostre merci arrivano sui mercati europei con un costo maggiorato rispetto alla partenza. E comunque anche con un danno all'ambiente, perché l'impatto ambientale con 300 km, 400 km in più, senz'altro c'è, solo che ovviamente lo devono poi sopportare altri paesi di transito. Baumgartner, un'ultima battuta, siamo in chiusura. C'è stato un incontro fra associazioni di categoria e governo qualche giorno fa. Un tema centrale è stato sicuramente quello del cabotaggio irregolare. Praticamente noi abbiamo numerosissime imprese di autotrasporto dell'Est Europa che vengono a fare cabotaggio, quindi trasporti irregolari in Italia, ma un provvedimento simile all'inverso, cioè se fosse l'Italia a chiedere che per entrare nel territorio italiano bisogna possedere veicoli Euro 6, non sarebbe possibile? Ma certo, vede, io ritengo che il trasporto internazionale tra gli Stati membri ormai è liberalizzato e non penso che lì si possa ritornare indietro. Certo, noi possiamo in Italia fare dei provvedimenti che ostacolano vettori degli altri paesi verso l'Italia, però lo stesso cercano di fare altri paesi. Io sono più per trovare una regolamentazione a livello europeo che permette sì la libera circolazione delle merci e la libertà di impresa per ogni azienda, trasportatore, per ogni paese, però deve esserci le condizioni che ognuno operi con gli stessi costi, con le stesse condizioni di base. Oggi abbiamo problemi che i paesi dell'est hanno condizioni di costo del conducente molto molto inferiori a quelli italiani, ma solo italiani, ma anche negli altri paesi europei della vecchia Europa. Bisogna trovare dei meccanismi per adeguare questi differenziali di costo per in modo che tutti possiamo